il deserto che abbandoni, non importa se non bussi, se dentro me risuoni, tu che tutto prendi e distendi le mie mani, soffi sulle ali stanche il tuo volo di gabbiani. Gelsomini odori, breccia sopra i muri del futuro che non hai, del silenzio che mi parla di te, eterna roccia dei miei fiumi, di un passato che tu sai risvegliare col tuo raggio che mi illude e che dispensa l'esistenza intorno a me, che quando bruci nell'aria la tempesta si infuria, bruci nell'alba nei miei pietra nella mia bisaccia, quando il braccio piegherà e senza una ragione scotterà. Tu che tutto sei e imperversi sui pontili, salti dal mio treno poi ed intrecci i miei binari, versi sui miei fogli il profumo dei tuoi inchiostri, non importa se ti mostri, se il buio dei miei occhi apparirà. Riversa torcia sui miei specchi di una nebbia che tu puoi dissipare col